известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. What time is it? Questo è il suono delle sirene che alle 9 di mattina, ora locale, ha letteralmente immobilizzato, fermato Israele per un paio di minuti per ricordare, memorizzare, celebrare il ricordo dei 6 milioni di ebrei sterminati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, il giorno della Shoah, il giorno che arriva dopo un giorno nel quale a Ginevra, in un evento globale, non a caso ideato, promosso dalle Nazioni Unite, il paese, la Nazione Israele, si è sentita apostrofare pesantemente da Mahmoud Ahmadinejad nel discorso di ieri, che, come ormai tutto il mondo sa, ha provocato reazioni decise, estreme da parte dei presenti, con l'abbandono della sala dove si teneva la conferenza da parte di buona parte di un buon numero di rappresentanti, soprattutto dei governi europei, e poi con successivamente reazioni estremamente dure. Basti dire che Reuven Rivlin, il presidente della Knesset, il Parlamento israeliano, ha detto: il mondo ha visto ieri il ritorno di Adolf Hitler, questa volta alla barba, e si esprime in farsi. Il mondo ha visto ieri il ritorno di Adolf Hitler. Non sono parole da poco, sono parole su cui conviene riflettere, perché sono parole che possono non avere poi ritorno, nel senso che questa tensione sta alzando spaventosamente, mi sembra, no, circondata anche da una certa impotenza collettiva, sta alzando la propria temperatura. Le sue parole sono le stesse, le aspirazioni sono le stesse, la determinazione di dotarsi dei mezzi per realizzarle è la stessa determinazione minacciosa. Ahmadinejad paragonato a Adolf Hitler. L'Italia, come sapete, non è presente a questo Durban 2, questa conferenza ONU sul razzismo, che ci sembra stia andando in tutt'altra direzione. Ieri c'è stata la presa di posizione particolare del Vaticano, che, deplorando l'utilizzazione del forum dell'ONU per assumere posizioni politiche estremiste e offensive contro qualsiasi Stato, non ha però ritenuto opportuno, appunto, come hanno fatto altri rappresentanti, abbandonare la sala. Noi oggi a questi aspetti dedicheremo molto rilievo, sia con i vostri interventi ottenuti attraverso la nostra pagina Facebook, dove avete discusso, preso posizione, espresso anche pensieri di grande interesse e un generale orientamento che mi ha personalmente sorpreso sulla questione, ma ne parleremo tra poco. Poi avremo due ospiti a dibattere sulla questione specifica di questa frizione che si intravede a margine della grande frizione, con la G e la F maiuscola, no? tra naturalmente Iran e Israele, ma le posizioni tra Vaticano e Israele, che continuano a essere poco allineate, poco armoniche. E c'è sicuramente qualcuno che, di fronte a questi fatti, ieri deve aver pensato per il peggio, ed è Barack Obama, che certamente si è reso responsabile qualche settimana fa, in tempi estremamente recenti, di un grande passo di avvicinamento diplomatico, naturalmente, all'Iran, con un discorso di grande apertura, come non se ne registravano da anni, con la volontà di chiamare l'Iran con il suo nome, usando quella parola Repubblica Islamica, che di solito non si usa da parte degli inquilini della Casa Bianca. Sicuramente ieri non è stato un evento che è andato in favore dei tentativi di dialogo, no? Di diplomazia, di persistenza nel dialogo, che ormai fanno parte del credo del neo presidente americano. Tra l'altro, ormai nei pressi dei suoi famosi 100 giorni, lui voleva nei suoi 100 giorni iscrivere anche un sensibile avvicinamento con i governi di molte delle nazioni ormai quasi storicamente ritenute avversarie, nemiche, se non emblemi maligni da parte degli Stati Uniti, e in questo ricorre l'avvicinamento con Cuba, e ricorrevano anche i passi fatti nei confronti dell'Iran. Poi gli Stati Uniti, come l'Italia peraltro, non hanno partecipato all'evento di Ginevra, non hanno ritenuto soddisfacente la premessa programmatica a cui questo evento si ispirava, e ieri sicuramente questi nuovi fatti gettano nuova benzina sul fuoco, perché non c'è dubbio che la comunità israeliana e gli ebrei d'America si faranno sentire con Washington, con la Casa Bianca, chiederanno prese di posizione più dure, maggiore chiarezza sulla questione. Ieri peraltro Barack Obama era a sua volta impegnato in una missione che definirei tutto sommato diplomatica. As I made clear in releasing the OLC memos as a consequence of a court case that was pending. La missione diplomatica si è svolta a pochi passi da casa sua, a Langley, nel quartier generale della CIA, dove il presidente Obama non a caso ha fatto visita ieri, proprio all'indomani del momento di grande imbarazzo relativo alle rivelazioni sull'uso smodato, sembrano passate, della tortura del waterboarding per ottenere informazioni da alcuni prigionieri ritenuti terroristi. Sono emerse queste notizie che parlano di 266 utilizzi del waterboarding su due prigionieri, l'uno sottoposto 80-85 volte, l'altro più di 180 volte al trattamento per avere maggiori particolari. In almeno uno dei due casi peraltro la procedura non ha ottenuto alcun risultato, e naturalmente grande l'imbarazzo, anche come dire la sensazione di essere stati traditi dal numero uno del paese da parte della CIA, che peraltro ora è governato da un amico di Barack Obama come Leon Panetta, un clintoniano di ferro, un uomo su posizioni politiche molto vicine al presidente. Obama è andato alla CIA e ha spiegato una serie di cose, ha spiegato che le informazioni segrete erano già state compromesse e anche per questo non aveva altra scelta che permetterne la diffusione. Ha garantito la propria determinazione nel proteggere segreti, identità e sicurezza. Queste sono le parole che ho usato, degli agenti della CIA coinvolti in queste operazioni. Ha detto che il rispetto nei confronti della CIA e del lavoro svolto da parte della Presidenza è massimo, ha detto di essere perfettamente consapevole che la CIA vada ringraziata da parte della Presidenza per il lavoro svolto, che punta a proteggere la libertà americana. La CIA è fondamentale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha aggiunto Obama, allorché devono far fronte a un'ampia gamma di sfide non convenzionali. Naturalmente anche queste parole, come il discorso fatto prima, sicuramente visto da altri punti del pianeta, magari non raccoglie certamente lo stesso entusiasmo e la stessa approvazione. Neanche Dick Cheney, ex vicepresidente americano, nonché eminenza grigia della Casa Bianca negli ultimi 8 anni, si è detto particolarmente soddisfatto dalle scelte di Obama e dei suoi relativi alle rivelazioni sulla CIA. Parlando con la BBC ha detto che è stato fuorviante decidere di pubblicare i memo della CIA sulle tecniche di interrogatorio utilizzate contro presunti terroristi. Ha detto: una delle cose che ho trovato irritante in questa recente rivelazione è stata che questi memo legali non mostrano i successi di questi sforzi. I successi non sono stati declassificati, per questo chiedo ufficialmente che vengano declassificati ora. Come dire, visto che abbiamo detto che l'abbiamo fatto, almeno diciamo a cosa è servito macchiarci, insomma, di questo comportamento, certamente oltre i limiti del consentito. Ora ci avviamo ad aprire questa ampia pagina che vogliamo dedicare comunque a questo disordine diplomatico che in un certo senso si è impadronito nel mondo, guarda caso quando è risceso in campo Mahmoud Ahmadinejad, un uomo che con poche parole, peraltro ieri cosparse da interruzioni di ogni genere, provate a sentire. Following the World War II, they resorted to military aggressions to make an entire nation homeless under pretext of Jewish sufferings Pensate che il presidente iraniano Ahmadinejad ha rinunciato a pronunciare una frase che esprimeva dubbi sull'olocausto nel corso dell'intervento di ieri alla conferenza dell'ONU sul razzismo. Questo è un particolare emerso solo nelle ultime ore. Il capo di Stato non avrebbe pronunciato la seguente frase: la questione ambigua e dubbia dell'olocausto, che invece sarebbe contenuta nella versione in inglese e nella versione scritta del discorso. Vi ripeto la frase, il virgolettato è il seguente: la questione ambigua e dubbia dell'olocausto. Nel suo intervento, che è stato fatto in lingua farsi, come sentite, Ahmadinejad ha parlato dell'abuso della questione dell'olocausto, secondo quanto hanno reso noto oggi a Ginevra le Nazioni Unite. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, loro, ovvero gli alleati, hanno fatto ricorso all'aggressione militare per fare di una intera nazione un popolo di senza tetto, con il pretesto delle sofferenze degli ebrei e della ambigua e dubbia questione dell'olocausto, si legge nella versione inglese distribuita dalla missione dell'Iran, ma poi non pronunciata dal presidente iraniano Ahmadinejad. La questione è rovente, parole di questo genere, come dicevamo in apertura, non sono parole da cui si torna facilmente indietro, anche se poi ci spiegano che le diplomazie in questo caso seguono tortuosi percorsi. Ne parliamo tra poco, a cominciare da quello che ci avete detto voi. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Squawking like a big monkey bird. And I'm busting up my brains for the world. Keep your electric eye. Dunque, ieri sera è arrivata la presa di posizione della Santa Sede relativa al discorso pronunciato da Ahmadinejad. Si dice in questa presa di posizione che il discorso in questione è da giudicare estremista e inaccettabile. Però, spiegando il perché la rappresentanza vaticana abbia scelto di non unirsi alla protesta dei paesi occidentali, si dice che Ahmadinejad ha usato delle espressioni estremiste con le quali non si può essere d'accordo in alcun modo, ma allo stesso tempo nel dibattito che si svolge nel contesto della comunità internazionale ci sono opinioni, qualche volta radicali, che non possono essere condivise, ma che è necessario ascoltare, perché questo è l'ambiente e la natura delle Nazioni Unite, essere il forum nel quale tutte le nazioni si esprimono, e in questo caso poi le Nazioni Unite a loro volta organizzano un appuntamento, una conferenza sul razzismo e la xenofobia, addirittura a Ginevra, quindi in territorio neutro, no? Insomma, però di fatto le cose sono andate come sono andate, in una situazione di disordine, di non adesione iniziale di molti paesi, di ritiro, di facce che dire storte, lunghe e poco. Oggi si riprende, tra l'altro mi dicevi che hai controllato alcuni paesi, sono tornati sui loro passi, diciamo, in aula. Sulla trentina dei paesi che sono a Ginevra, una ventina mi sembra siano ancora da quelle parti, insomma non è certo un successo. Noi abbiamo chiesto a voi ascoltatori, nella questione Santa Sede, Israele, c'è qualcosa che segnala che le posizioni si stiano distanziando irrimediabilmente? Avete sentito la pesantezza della reazione di Israele, che paragona Ahmadinejad a Hitler. Del resto Ahmadinejad a sua volta ribadisce, anche se poi non lo legge all'ultimo momento, i suoi dubbi sull'Olocausto. Che cosa ne pensate dell'atteggiamento della Santa Sede? Vi abbiamo chiesto, e soprattutto a cosa preclude. Express yourself. E bisogna dire che nel nostro dibattito, come sempre acceso e articolato su Facebook, oggi c'è stato un trionfo di pareri positivi, favorevoli per la Chiesa, per il Vaticano. Molti tra l'altro hanno fatto un preambolo, quasi si sono scusati, sorpresi di essere per una volta tanto d'accordo con la Chiesa. Insomma, certo. Qui a Jefferson tutte le opinioni hanno cittadinanza, però non è una colpa preventiva, no, essere dalla parte naturalmente del Vaticano. E allora Peter dice: penso che il Vaticano abbia colto un'altra occasione per porsi come unico giudice morale nei confronti dell'Occidente. Poi c'è Mariano che dice: alle riunioni di condominio si va anche se il vicino di casa non è simpatico. Divertente questo paragone. Una pensa diversamente da me. È sbagliata la protesta italiana a disertare gli incontri, la diplomazia è dialogo. Poi c'è un Lorenzo Sferzante, insomma, dice: sono un fiero antisionista, cosa assai diversa dall'antisemitismo. Credo comunque che il capo di governo iraniano, per quanto provocatore, sappia di giocare una partita persa in partenza. L'Olocausto è inutile negarlo, c'è stato ed è stato uno scempio. Il senso di colpa però dell'Occidente è ancora acuto e fa sì che Israele possa compiere le peggio nefandezze in Palestina. E vedo anche sui messaggi SMS 349-238-6666 che fioccano argomento i caldo. Pareri, sì, l'argomento è caldo. Un ascoltatore ci segnala che ha regalato un burka a sua moglie perché ci chiede tra quanti mesi diventerà obbligatorio. Insomma, queste sono ironie, ma la situazione non mi sembra esattamente pacificata. Umberto scrive: curioso, il Papa è cattivo per il Belgio se parla di profilassi, buono se ascolta deliri in nome della libertà di espressione. Sembra Bambi Obama. Il presidente iraniano accolto in patria come una rockstar. Unione Europea non pervenuta. Questo è il parere di Umberto. Paolo ci scrive: normalmente mi trovo su posizioni diametralmente opposte al Vaticano, ma in questo caso riconosco la ragionevolezza nelle parole di chi normalmente non accetta altra visione del mondo se non quella cattolica. Margherita ci dice: l'ONU, a mio parere, è non solo inutile e impotente, ma anche spaventosamente costosa. Chi si illude ancora che serva a qualcosa? Devo dire che se ci sono azioni che vanno malissimo in questo momento, quelle dell'ONU, caro Emiliano, sono quelle dell'ONU. Forse peggio della Lehman Brothers, chi lo sa. Invece c'è Giovanni che scruta l'orizzonte delle brutte conseguenze di quello che sta succedendo ed è già successo a Durban 2, insomma, a Ginevra. Dice: il pericolo è che dal rifiuto e l'abbandono dell'assemblea ne possa scaturire un'altra stagione di persecuzioni e stragi verso i pochi e già abbondantemente perseguitati cristiani d'Oriente. Cristiano scrive: non credo che il razzismo, la xenofobia o la arabofobia israeliana siano una fandonia, così come neanche l'antisemitismo, sia quello storico che quello iraniano, ma non è andandosene che si risolvono certi problemi. Silvio: perché estrema tolleranza a quella del Vaticano? Sono estremi il diniego e la non partecipazione a Durban 2, come gli atteggiamenti di alcuni paesi, del resto i soliti, che tendono a delegittimare l'ONU, è cosa ormai evidente e risaputa. Bene fa il Vaticano a rispettare l'ONU. Andrea, questa volta mi trovo d'accordo con le posizioni della Santa Sede. Le posizioni ultraestremiste di Ahmadinejad sono ormai note. La politica di Israele verso i palestinesi anche, e non mi è mai sembrata un buon esempio di tolleranza. Nostro amico Mukeba, mi stupisce l'atteggiamento della Santa Sede, ci sono tutti i paesi tranne i più importanti e la conferenza perde il significato, come parlare di razzismo e diritti umani con paesi che non li applicano e usano Durban 2 per fare campagna elettorale come l'Iran? Edo ci manda la definizione di razzismo secondo il devoto Olio: ogni tendenza psicologica o politica che, fondandosi sulla presunta superiorità di una razza sulle altre o su di un'altra, favorisca o determini discriminazioni sociali o addirittura genocidio. Direi che per Israele perlomeno se ne potrebbe parlare, a prescindere dal pulpito inaccettabile da cui parla Ahmadinejad. Uno al volo ancora? C'è un affezionato, Adlai, che è surreale, sarcastico, dice: l'Iran è una repubblica sui generis e teocratica, lo Stato, città del Vaticano, è teocratico e basta, non è una repubblica, avanti, c'è posto per tutti. In the name of God, the compassionate, the merciful. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. E questi sono altri momenti delle contestazioni che hanno così costellato il discorso di Ahmadinejad ieri a Ginevra. A un certo punto sono saltati fuori anche i clown, è stato il momento naturalmente più surreale, ma forse non del tutto come dire, inatteso o fuori luogo, no, di questa di questo strano evento. Io saluto i miei ospiti, che sono Maria Grazia Enardu, una voce che sentite spesso qui a Jefferson, fa la ricercatrice di storia internazionale alla Università di Firenze, insegna storia di Israele moderno. Buon pomeriggio, Maria Grazia. Buon pomeriggio a voi. E poi il nostro amico Filippo Di Giacomo, sacerdote, giornalista, conduce Il Cielo in una frase da molto tempo qui a Radio 24 e viene utilizzato come arma impropria. Filippo, ciao, buongiorno. Buonasera. Per discutere di un po' di tutto, perché ci piacciono le cose che ci dice. E le vostre linee, tra l'altro, Maria Grazia e Filippo, sono aperte, quindi potete anche eventualmente interloquire fra voi. Vorrei partire, Filippo, dalla tua interpretazione dei fatti, naturalmente in modo sbrigativo, ma c'è stata, come dire, un certo, tutto c'è stata, non so se hai sentito il programma poco fa, ma c'è stata una levata di scudi da parte dei nostri ascoltatori in favore delle posizioni espresse dalla Santa Sede in questi frangenti, perché si dice in grande maggioranza, dicono, se si va a un evento sul razzismo alzarsi e andarsene quando qualcuno dice cose, per quanto estreme e spaventose, diverse dalle nostre, però, come dire, non fa più collimare gli indici. Ma ci dai un po' una lettura, una interpretazione appunto della posizione che poi è stata anche ribadita, che il Vaticano ha voluto ottenere in questa occasione? Ma mi ha fatto un po' impressione leggere il pezzo di Elie Wiesel oggi sui giornali, in cui diceva no, bisognava andare via perché la questione è eminentemente morale. In realtà forse bisogna essere anche un po' coerenti, perché per esempio sul sottofondo di quello che abbiamo sentito in apertura del tuo programma, non ci siamo mica detti che mentre il presidente iraniano veniva, per così dire, contestato dai tre francesi vestiti da clown, lui ha interrotto il suo discorso, ha iniziato a recitare una sura del Corano, si sente chiaramente il nome di Onnipotente e Misericordioso, e quindi in realtà forse la Santa Sede è più attrezzata anche di altri a capire quale sia anche il livello simbolico all'interno del quale si agisce. Ora forse questo livello simbolico va rapportato al fatto che come comunità che raggruppa 1.200.000 persone, gli ebrei sono molto di meno, forse la Santa Sede ha un ventaglio di analisi un po' più ampio e riesce più facilmente a comprendere come se si parla forse l'assemblea dell'ONU è il luogo dove si possono anche dire delle insanità, insomma. Sì, anche se come dicevamo nella prima parte è uscita poco fa questa agenzia che sostiene che nel testo scritto ma non letto da Ahmadinejad ci fosse addirittura questa frase, il virgolettato è: la questione ambigua e dubbia dell'olocausto, quindi questo rilancio sul negazionismo che lo stesso Ahmadinejad evidentemente poi non se l'è sentito di pronunciare. Però le reazioni sono state diciamo estremamente decise. Maria Grazia, quest'utilizzo di una etichetta che insomma è definitiva, no? Si cita Adolf Hitler da parte di rappresentanti di altissimo livello della rappresentanza del governo israeliano, voglio dire è una parola finale, no? non c'è ritorno da giudizi di questo genere. Ma in quale direzione? Cosa c'è dopo? Non c'è ritorno, anche perché Israele, al di là del nervo, è sempre scoperto su tutta la questione della Shoah, ed è giusto che sia così perché questa è anche una nazione di sopravvissuti, vive un momento diplomatico estremamente difficile, e quindi sentire Ahmadinejad che va a Ginevra a fare la sua campagna elettorale, perché a giugno lui ha le elezioni con un forte avversario come Mousavi, in un momento in cui il governo di Israele guidato da Netanyahu è un governo con qualche problema sia all'interno che all'esterno, e in cui si inizia a giocare la vera partita diplomatica per il Medio Oriente con un forte giocatore come il presidente Obama, che vuole cambiare tutte le carte in gioco, questo rende tutti molto nervosi. Aggiungo anche che, appunto, come diceva poco fa Don Filippo, queste sono anche delle sceneggiate che vanno un pochino guardate nel contesto, e il rifiuto degli occidentali di star lì fermi a braccia conserte senza applaudire e poi replicare a tono è anche forse un fallimento del metodo della diplomazia, che forse dovrebbe essere reinterpretato in ogni sede. Filippo, non vorrei rilanciare sempre sullo stesso tavolo, ma anche qui in trasmissione più volte, no, abbiamo descritto gli strani andirivieni, up and down, su e giù dei rapporti recenti tra Santa Sede e Israele. Un episodio di questo genere cos'è? Un'altra pagina al contrario, in negativo? Che cosa descrive? Ma intanto bisogna distinguere i rapporti tra Chiesa ebraismo e Chiesa Israele, è diciamo fondamentale. Gli ebrei neanche si rendono conto della gratitudine che il cristianesimo ha nell'aver ricevuto, tramite gli studi dei rabbini, degli esegeti ebrei degli ultimi 3-4 decenni, delle informazioni preziosissime sull'identità ebraica di Gesù. Era, diciamo così, uno degli elementi che mancavano alla riflessione cristologica, come per esempio... La stai prendendo tu in chiave diplomatica. No, però diciamo, dall'altro parte non bisogna neanche dimenticare, cioè Israele è un potenziale rivoluzionario come democrazia anche all'interno dei rapporti tra Stato e culti nel Medio Oriente. Perché Israele ancora non si decide a firmare gli aspetti pratici di quell'accordo fondamentale che ha portato 14 anni fa al riconoscimento delle relazioni diplomatiche tra Israele e Vaticano? Perché questo primo concordato rimetterebbe in discussione tutto quello che è la politica della presenza delle religioni all'interno di stati che sono laici, tolleranti, però accettano il sistema dei dhimmi, cioè delle religioni tollerate volute dal Corano, eccetera. Cioè Israele come Stato sta sacrificando molto al suo potenziale democratico perché ha motivi di sicurezza per farlo. Quindi in realtà dal punto di vista psicologico forse gli israeliani non comprendono diciamo così quanto siano stati importanti per il cristianesimo contemporaneo. Cioè un papa che va in sinagoga non ci va da solo, ci va con tutta la chiesa, cioè con tutti quelli che gli hanno insegnato a mentre dall'altra parte forse c'è una certa difficoltà a comprendere anche l'importanza di armonizzare la propria democrazia con degli interessi che siano magari meno contingenti. Però sentiamo Maria Grazia come interpreta questa tua queste tue indicazioni, Filippo. Maria Grazia. Credo che probabilmente la Chiesa di oggi capisca il mondo ebraico meglio di quanto il mondo ebraico non capisca la Chiesa. Questo sia perché la Chiesa, il mondo cattolico, essendo molto grande, ha molte articolazioni al suo interno e quindi anche molti studiosi e molte voci, sia perché da parte ebraica la reazione al mondo della Chiesa è epidermica e terribile, li hanno martirizzati per secoli, non hanno avuto molto tempo e modo, soprattutto in questi decenni di grandi pericoli percepiti e anche reali, di studiare le cose nelle biblioteche e sui codici. Ecco, ma quella firma di cui parla Filippo, che cosa ne pensi? Penso che sia vero, penso che abbia ragione. Va bene, ci sentiamo tra pochi istanti, diamo la linea al traffico e poi continuiamo la nostra conversazione con Maria Grazia Enardu e Filippo Giacomo. Torniamo a parlare di questo episodio che ieri dalla sala di Ginevra poi si è espanso, no, a onde oscillatorie veramente per tutto il mondo, l'abbandono della sala da parte di molti rappresentanti convenuti, soprattutto europei, durante il discorso di Mahmoud Ahmadinejad, la invece decisione del rappresentante vaticano di restare, di non abbandonare la sala. Filippo, ma come funziona in questi casi? È una decisione presa in prima persona da chi in quel momento rappresenta la Santa Sede, oppure c'è stato prima sicuramente un conciliabolo, avranno magari visto il testo? Come sarà andata? Una cosa spontanea o concertata, a tuo parere? No, vabbè, c'è un osservatore permanente a Ginevra e diciamo i lavori della conferenza vengono che è Tommasi, no? Sì, Tommasi, vengono seguiti, che poi tra l'altro è stato a lungo a Roma incaricato di immigrazione, quindi uno dei fondatori dell'opera Migrantes e di altre iniziative legate a questo fenomeno della globalizzazione. Quindi, poi Nunzio Tomasi credo che sia stato anche nunzio a Teheran, quindi è un esperto del settore. Però in genere, diciamo così, cioè la Chiesa va vista anche come realtà ecclesiale. In Iran esistono comunità cattoliche molto antiche, prima dell'avvento del regime comunista esisteva anche una forte articolazione di opere sociali cattoliche, però è eretta una conferenza episcopale, ci sono dei presuli. Queste sono tutte voci e tutte informazioni che vengono, diciamo così, raccolte, di cui si fa memoria, per cui il nunzio, quando progetta un modo di presenza, un modo di azione, sa benissimo cosa c'ha alle spalle e quali siano poi anche gli interessi che deve tutelare, perché forse bisognerà ricordare che ci sono delle comunità cattoliche, le vogliamo considerare totalmente libere, totalmente aperte a qualunque possibile libertà, però dentro i paesi islamici e musulmani stanno, insomma, e questo va tenuto anche conto. Maria Grazia, abbiamo rievocato all'apertura di questo spazio i discorsi, le parole spese, le lettere inviate da Barack Obama all'indirizzo del governo, della presidenza di Teheran, solo pochi giorni or sono. C'è da pensare che a questo punto Israele, come dire, presenti un po' il conto a Barack Obama all'indomani di questo episodio che indurisce, peggiora, rende più oscuri i rapporti e quel tentativo, no, di pacificazione, di discorso, di dialogo a tutti i costi che Obama sembra voler incarnare, ma poi mi sembra si incagli in problemi tutt'altro che trascurabili? Al di là delle iniziative di Obama verso l'Iran, c'è il difficilissimo avvio di un rapporto tra questa presidenza Obama e il governo Netanyahu. Non hanno ancora trovato il giusto passo. Netanyahu è anche convintissimo, e ha ragione, di conoscere bene l'America, ma lui non conosce bene questa America. Quindi, al di là della triangolazione Israele, Iran, Stati Uniti, c'è bisogno che trovi un'intesa, e un'altra grande difficoltà è dovuta al fatto che Israele non ha un suo progetto di pace. Finora si è limitata a dire no a questo, no a quello, o reinterpretare la roadmap, o dire che Annapolis non vale, eccetera, eccetera. Barak, il ministro della difesa, vuole che Israele lanci un suo piano di pace, e se non si trova una sorta di modo di interagire positivamente con gli americani, saranno sempre fuori passo, e quindi qualunque mossa avrà un effetto moltiplicatore negativo. Tra l'altro, Filippo, a un certo punto sembra, no, ci sia a questo punto una identità tra le posizioni di Barack Obama e quelle del Vaticano. Se il principio, che poi è stato ribadito in serata dopo che le acque si erano ampiamente smosse da Monsignor Tomasi, era quello che, in totale disaccordo con quanto detto da Ahmadinejad, però il diritto di parola e quindi la possibilità di un dialogo va difesa a tutti i costi, questa sembra essere la posizione della Santa Sede in questo momento, e quindi nei rapporti con Israele questo resta sicuramente un punto di profondo disaccordo. Israele dice via, non se ne parla, chiudiamo ogni chiavistello possibile, no? Ma anche qui bisogna distinguere tra cattolicesimo e Santa Sede, perché tu insisti sempre su questo, perché è vero poi c'è certe volte parli di rappresentanze della Chiesa e certe volte di rappresentanze del Vaticano. Io ho capito, no, questo stavo dicendo una cosa, che se come cattolicesimo, per esempio, durante l'epoca Bush il sentire cattolico era molto vicino ad alcune posizioni in materia di etica, non bisogna neanche dimenticare che al momento della seconda guerra in Iraq la Santa Sede ha fortemente criticato la rottura del multilateralismo, tanto che si è legata alla Croce Rossa non facendo entrare le proprie organizzazioni umanitarie in Iraq, tenendole ferme in Giordania fino a quando la Croce Rossa non è stata anch'essa autorizzata a entrare sul terreno di scontro, sul terreno di guerra. Quindi diciamo così, chi vedeva Barack Obama in rotta di collisione con la Santa Sede, può darsi che il sentire cattolico in materia di alcuni argomenti sensibili sarà molto diverso, però certamente già durante la campagna elettorale era chiaro che Obama era per il multilateralismo e quindi sarebbe stato, diciamo, molto più vicino alle posizioni che la Santa Sede ha sempre mantenuto. Poi io vorrei anche segnalare un piccolo problema. Velocissimo, Filippo, velocissimo. Piccolo problema, cioè in realtà in Israele attualmente sta avvenendo anche, diciamo, dei problemi di politica interna che forse sul dialogo futuro avranno delle forti conseguenze, che è quello, non se ne parla, ma è l'ebraizzazione di Gerusalemme. Sta avvenendo molto forte e accelerata. Ci torniamo sopra, il tema è grosso. Io ringrazio Maria Grazia Enardo e Filippo Di Giacomo che ci hanno aiutato a approfondire questo tema di discussione. Edizione di oggi di Jefferson 2, io sono Stefano Pistolini, redazione Milano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma e Peter Bescapè a Milano. La mail è jefferson2@radio24.it, il numero per sms, ripetiamolo, 349-238-6666, la tormentata pagina Facebook, non funzionano più le mail di risposta, quindi o scrivete in bacheca se volete dibattere con noi, oppure anche nella home page, noi mettiamo nella home page, nella nostra pagina principale, mettiamo i riferimenti al tema del giorno. Le due pagine sono redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. Iscrivetevi numerosi se volete ascoltare la trasmissione in replica a mezzanotte, in podcast sul sito della radio, in diretta domani alle 4 qui su Radio 24.